Carissimi ascoltatori, anche questa sera iniziamo con la proclamazione del Credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questa sera commentiamo un po' l'espressione morì e fu sepolto e discese agli inferi. Leggendo i racconti della passione del Signore, noi notiamo che la vita di Cristo, uomo Dio, è confrontata con quella di un tale chiamato Barabba, che si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. Ecco allora il Figlio di Dio, l'innocente, il Salvatore, confrontato con un tale chiamato Barabba. Non è per fare dei preziosismi. Voi dovete sapere che Barabba vuol dire figlio del padre ed era il nome che si dava a quelli che noi chiamavamo fino a qualche tempo fa i figli di NN, i figli di padre ignoto. Notate allora che il figlio del padre con la P maiuscola, il figlio del padre Dio, viene messo a confronto con il figlio di nessuno, con il figlio di NN, con un Barabba qualunque. E notate che il piatto della bilancia pende in favore di Barabba. Dio prenderà su di sé la croce che spettava all'assassino, morendo innocente al posto del colpevole. E notate, non è un caso, non è un errore giudiziario, è uno splendido progetto di Dio. I racconti della passione ci dicono ancora che Gesù è crocifisso tra due banditi. Per la verità, leggendo con attenzione i Vangeli, si trova il termine lestes, lestai, che non vuol dire né ladrone, né brigante, né bandito, ma sobillatore politico, guerrigliero, potremmo dire noi oggi con le nostre parole brigatista. Gesù è crocifisso tra due rivoluzionari politici, tra due della guerriglia anti-impero romano che a quei tempi c'era in Palestina. Bene, ufficialmente sono tre banditi, tre condannati perché nemici dello Stato, e come leggiamo nel Vangelo di Marco, Gesù è messo fra i malfattori, e nemmeno questo è un caso. È una scelta d'amore, una scelta di campo. Cristo si identifica sempre con le vittime, mai con i carnefici. E siccome vittime e carnefici, senza distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo, proprio lì sulla croce, in mezzo a due brigatisti. Nella prima lettera di Pietro leggiamo: Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci a Dio. Ecco allora che comincia a prendere significato il perché Gesù morì, fu sepolto e discese agli inferi, per andare incontro a tutti gli uomini, quelli dei secoli che lo hanno preceduto, ai suoi contemporanei e a quelli dei secoli seguenti, perché è venuto per salvare tutti. Noi peccatori nella nostra vita abbiamo più bisogno di pentimenti che di belle pagine, ci nutriamo più di perdono e di misericordia che di belle parole. Ed ecco allora che Gesù viene incontro anche a questa nostra situazione, a questa nostra esigenza di peccatori che soffrono di essere peccatori deboli e fragili. E prima di morire Gesù pronuncia una preghiera la cui eco non si spegnerà mai nei secoli, che è bellissima. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ci perdona e in parte anche chiede per noi le attenuanti, direi quasi la semi-infermità mentale, perché quando noi facciamo i peccati siamo proprio matti. Sempre dal racconto della passione di Gesù, leggiamo che per accertarsi che Gesù fosse veramente morto, uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. E voi dite, vabbè, fatterello, no, non fatterello, qui c'è dentro l'identità di Cristo e l'identità del cristiano. Da quel momento l'unica legge è quella del cuore aperto che versa tutto il sangue per gli altri. Come Dio è Padre amore tutto per noi, lo leggiamo nella prima lettera di Giovanni, così anche il Figlio di Dio Gesù Cristo è amore tutto per noi. Notate in queste parole che diciamo proprio nel credo, nella consacrazione della messa, questa piccola parola per, a vostro pro. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, fu crocifisso per noi a nostro pro. Gesù dice nell'ultima cena, questo è il mio corpo offerto per voi, è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti. Allora, se Dio è amore tutto per gli altri, se Cristo ha versato tutto il suo sangue, tutto il suo amore a nostro pro, è chiaro che i figli di Dio, i credenti, i fratelli di Gesù Cristo, saranno veramente tali se saranno degli uomini tutto per gli altri, ossia altruismo, amore puro, niente egoismo, niente ricerca di se stessi, perché così è il Padre e così è Gesù Cristo. Gesù, morendo in croce da altruista, ha rifiutato l'egoismo di chi si chiude in se stesso per preservarsi, per non morire, per non donarsi, e si è svuotato per gli altri, e quindi crea un'immagine nuova dell'uomo. L'uomo, quello che merita davvero questo nome, l'uomo nuovo, è l'uomo per gli altri. Leggo una breve frase del cardinale Ratzinger. Gesù, essendo pienamente per gli altri, è pienamente se stesso, è modello della vera umanità. Diventare cristiani significa diventare uomini concretizzando il vero essere umano che è essere per gli altri ed essere per Dio. Morire è amare fino all'ultimo, l'ha detto Gesù, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ma amare fino in fondo, fino a morire, a svuotarsi completamente di se stessi per donarsi agli altri, è anche l'unico modo di vivere, vivere l'amore, vivere per produrre del bene, per produrre la vita. Dalla prima lettera di Giovanni noi leggiamo, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E noi sappiamo che questa lettera ribadisce più volte, ma non li amiamo a parole o con i sentimenti inconcludenti o con dei pensieri raffinati. Dobbiamo amarli con le opere, con i fatti, perché sono i fatti che contano. Spesso si dice che si muore soli, difatti io muoio e gli altri restano lì vivi, magari contenti o piangenti, ma loro restano, me ne vado via da solo. Non è vero che si muore da soli, nulla di più falso. Per un certo aspetto dobbiamo dire che solo Gesù è morto solo. Noi moriamo assistiti come minimo da Lui, moriamo con Lui, dice Paolo Apostolo, perché la nostra vita non è altro che il Cristo che è nato quando siamo nati noi, è vissuto in noi e muore nuovamente, misteriosamente in noi. Quindi noi moriamo con Cristo, meglio, noi non moriamo. Passiamo con Lui alla vita, da questa vita con la V minuscola alla vita con la V maiuscola, che è la vita eterna, quella del paradiso. Allora, la morte non ha più lo stesso volto da quando Cristo vi è entrato e l'ha fatta sua, da quando Cristo è morto. Ha trasformato radicalmente la morte e il significato della morte. Prima che morisse Dio, diventato uomo in Cristo Gesù, la morte era solo morte, scomparsa, cancellazione. Ora la morte non è più la soglia gelida della solitudine e del nulla, ma è la porta stretta e la via angusta che conduce alla vita. Certo che la morte è ancora una porta stretta, una via angusta, ma porta alla vita eterna, non alla morte definitiva. E ci chiediamo, e chi ci sta dietro questa porta stretta? Chi ci sta in fondo a questa via angusta che conduce alla vita? Ci sta Cristo, che ci attende con le braccia aperte, con il cuore aperto. La morte non è più l'inferno. L'inferno è vinto da quando l'amore con la A maiuscola, la vita con la V maiuscola, ossia Cristo, ci attende nel luogo che era chiamato il regno della morte. Permettete che provi a fare un piccolo esempio, sicuramente zoppicante, per evidenziare meglio la cosa. Un emigrante parte dal suo paese, va all'estero a far fortuna, a cercare lavoro, con un po' di soldi raggranellati, con i suoi risparmi, compra, diciamo tanto per fare un esempio che possa somigliare alla morte, un porcile, un mattatoio, un luogo di tortura, di esecuzione capitale, non so, un pezzetto di campo di concentramento, ammesso che si possa comperarlo. Quindi un luogo infame, un luogo di morte, un luogo lercio. Scrosta tutto, intonaca di nuovo, rifà i pavimenti, cambia il tetto, insomma, ristruttura questo luogo infame, questo mattatoio, questo luogo di tortura, di morte, di esecuzione, e ne tira fuori una casettina bella, pulita, presentabile. Poi chiama da lontano la moglie con i bambini: venite, ho messo su casa. E la famiglia si ricongiunge con il padre che è andato all'estero e ha incominciato con sacrificio a preparare una casetta, il necessario per poter vivere da famiglia unita. Chi entra dentro in quella casa, dopo che ci è entrato il padre di famiglia, trova una bella casa, pulita, accogliente, gradevole. Forse non capisce com'era quella casa lì prima che ci entrasse il padre di famiglia. Ripetiamo, poteva essere un porcile, un mattatoio, un luogo di tortura, di esecuzione capitale, un campo di concentramento, di sterminio. Bene, la morte era una cosa bruttissima come queste che abbiamo elencato. Da quando ci è entrato Cristo è stata ristrutturata, trasformata, ha cambiato finalità, finalizzazione, è diventata... Che cosa? La morte è diventata la chiave d'oro per aprire la porta del paradiso, la porta che ci fa entrare nella vita eterna, perché da quando Dio è entrato nella morte e ne è uscito fuori attraverso la risurrezione, ha trasformato la morte da porta del nulla, dell'inferno, della dannazione, del terrore, della cancellazione della nostra vita, in porta di entrata alla vita eterna. Che significato ha avuto per Gesù il morire? Per Gesù morire significò passare da questo mondo al Padre. Il significato della parola Pasqua è appunto questo. Lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 13. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco allora che la morte è passare da questa valle di lacrime al Padre, alla casa del Padre che è il paradiso. Di conseguenza, che significato ha la morte per il cristiano? Paolo, nella lettera ai Filippesi, dice: la morte significa essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, per andare a stare definitivamente con Cristo. Che cosa ha detto Gesù nel momento supremo della morte? Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, la mia vita. Ricordate come ci viene raccontata la morte del primo martire, ovviamente il primo dopo Cristo, nella storia del cristianesimo, il martirio di Stefano. Stefano prega con queste parole, simili a quelle di Gesù: Signore Gesù, accogli il mio spirito, accogli la mia vita. Ecco allora che la morte è uscire definitivamente da se stessi per fare della propria vita un dono totale a Dio che ce l'ha data, un dono di amore per ricongiungersi con il Cristo che è l'amore della nostra vita. Il credo afferma che Gesù fu sepolto. E noi ci chiediamo, era proprio necessario introdurre questa espressione in un simbolo della fede già così riassuntivo, che aveva tralasciato completamente i fatti importanti della vita di Gesù, come la predicazione, i miracoli? E a noi può sembrare un particolare non così importante, invece no. La sepoltura di Gesù sotto la pietra della sua apparente banalità nasconde la sua parte di mistero, ed è giusto che lo evidenziamo almeno un poco. Essa sottolinea una realtà fondamentale, che è questa: Gesù fu veramente uomo come noi, come tutti, come gli altri. Aveva un corpo vero. Difatti, il seppellimento è il fatto più eloquente che ci fa dire di un essere è stato un uomo in carne e ossa. Non si seppelliscono, per esempio, uno spirito, un angelo, un demonio, un'idea, un'apparenza. Cristo fu sepolto come un uomo qualsiasi, era un vero uomo, ed è importantissimo proclamare con forza che Gesù fu un vero uomo, è un vero uomo, non una parvenza d'uomo. Ancora di più, il Vangelo ci narra che il Signore è stato sepolto in circostanze ben precise. I Vangeli le riferiscono minuziosamente. Leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19. Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Vi andò anche Nicodemo e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Riprenderemo anche un aspetto di questo brano, ma ve l'anticipo subito, perché la curiosità non vi porti alla distrazione. Si dice: portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Sono degli elementi naturali, profumi, essenze estratte dalle piante, a quanto corrispondono 100 libbre, a 32 kg e 700 grammi, circa 33 kg. Lo diremo subito dopo. Provate a mettere, a spargere in casa vostra 33 kg di profumo solido. Chiudete ben bene le porte e le finestre e ditemi se non ci morite dentro asfissiati. Sarebbero bastati questi oli spalmati sul corpo di Cristo o sulle bende che l'hanno avvolto per far morire asfissiato il Cristo nella piccola tomba, anche se non fosse morto in croce e non fosse morto per il colpo di lancia. Andiamo avanti, leggiamo anche dal Vangelo di Matteo al capitolo 27. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata via una gran pietra sulla porta del sepolcro, rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Il giorno dopo, che era Parasceve, e Parasceve indicava il venerdì, giorno in cui si facevano i preparativi per il sabato, che era il giorno di Pasqua, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse, mentre era vivo, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Concludiamo un po' tirando appunto qualche considerazione su questi 2 brani di Vangelo. Ovviamente il racconto della sepoltura di Cristo è più ampio e più circostanziato. Allora, dopo la feroce flagellazione subita da Gesù, la crocifissione, il colpo di lancia al cuore, il rapporto ufficiale fatto dal centurione a Pilato, rapporto di morte, sì, l'abbiamo ucciso noi squarciandogli il cuore, con una quantità di aromi capaci di asfissiare nel piccolo spazio di una tomba chiusa anche un sano, ho detto 33 kg di profumo solido che si volatilizza, era evidente che Gesù giaceva morto senza possibilità di ritornare in vita, per come è il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo umano. Sigillando la pietra e mettendovi la guardia, i soldati, non poteva nemmeno essere portato via dai discepoli. Ed ecco che concludiamo dicendo una cosa a cui è bene porre attenzione. La profezia di Gesù, dopo 3 giorni io risusciterò, era quindi, umanamente parlando, assolutamente impossibile. Ripeto e sottolineo, umanamente parlando, perché la risurrezione di Gesù non è stata un'opera umana. Umanamente parlando era impossibile, assolutamente impossibile, ma per Dio nulla è impossibile. Nel Credo proclamiamo: discese agli inferi. Qualche decennio fa, improvvidamente, avevano tradotto discese all'inferno, e questo aveva creato una gran confusione tra la dannazione dell'inferno e Gesù Cristo, che non è ovviamente andato all'inferno. Vediamo di spiegare, se ci riusciamo, il significato di questa discesa di Gesù agli inferi. La spiegazione di questo articolo del Credo, diciamo subito, non è facile. Tuttavia non possiamo snobbarlo, tralasciarlo, questo articolo del Credo, svuotarlo del suo contenuto, affermando sbrigativamente che questa immagine discesa agli inferi esprime solamente la realtà della morte. Il Credo ha già proclamato la realtà della morte di Gesù. Abbiamo appena detto: fu crocifisso, morì e fu sepolto. Qui il Credo fa un passo avanti e ci vuol dire qualcosa altro, qualcosa di più. La discesa di Cristo agli inferi fa parte della sostanza del Vangelo, della buona novella, del lieto annuncio. Ed ecco allora che vediamo di capire cosa sono questi inferi. Prima di Cristo, al tempo di Cristo, tutti i popoli avevano una vaga idea, speranza o timore di continuare a vivere dopo la morte e tentavano di localizzare, di trovare un luogo dove sti morti che sopravvivevano in qualche modo, l'anima o in una forma umbratile come delle ombre, dove vanno a finire, dove andranno a finire, e hanno pensato a un luogo che non si sapeva bene dove ubicare, dove sistemare, comunque sottoterra, dove si radunavano tutte le anime dei morti. Quindi tentavano di localizzare, di materializzare quello che doveva essere un modo di vivere, di esistere nel regno dei morti. I giudei chiamavano questo modo di essere dopo la morte, o questo luogo, lo diciamo tra virgolette, Sheol. I greci lo chiamavano Ade o Tartaro. I latini lo chiamavano Inferi. Inferi, voi sapete che vuol dire i luoghi sottostanti, inferiori, sottoterra. Allora noi, lasciando da parte ogni localizzazione sottoterra, diciamo che gli inferi erano l'incontro di tutti i defunti, lo stato in cui ciascuno entrava quando raggiungeva i suoi antenati, come i fiumi vanno al mare. Ecco, allora tutti i morti raggiungono i loro antenati, vanno a finire, diciamo per capirci, in una situazione, qualcuno trova più facile la parola, in un luogo, chiamiamolo così, anche se non è un luogo, dove vanno a finire tutti i morti. Ecco, sono questi gli inferi in cui Gesù Cristo, appena spirato, raggiunse gli spiriti, le anime di tutti gli uomini morti prima di lui che aspettavano la salvezza. Questo luogo, ipotizzato, pensato come sottoterra, è il luogo dove c'erano tutti quelli che dal primo uomo fino a Cristo erano esistiti, ossia vissuti e anche morti. Ecco allora che Gesù va a cercare tutti gli uomini di tutti i tempi, quelli esistiti prima di lui al suo tempo e anche quelli che verranno dopo di lui, perché li vuole raggiungere tutti per salvarli tutti. Ecco allora che è un discorso errato e vano dire: ma quelli che sono morti prima che Gesù Cristo morisse sulla croce, quelli sono andati perduti. No, la morte di Cristo sulla croce ha dato salvezza a tutti gli uomini vissuti prima, ai suoi contemporanei e a quelli che vivranno dopo di lui. Ecco allora, Gesù Cristo, appena spirato, raggiunge gli inferi, dove c'erano gli spiriti, le anime di tutti gli uomini morti prima di lui, che aspettavano la salvezza. Potremmo dire gli inferi erano una specie di campo di concentramento, dove erano lì tutti questi che aspettavano che arrivasse qualcuno con la chiave del paradiso e aprisse per sé e aprisse anche per loro. Allora ci chiediamo subito: cosa vi andò a fare Gesù Cristo? E nella prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 19, leggiamo: andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Ecco perché io l'ho chiamato campo di concentramento, questo luogo dove erano assiepati tutti i morti di prima. Nella stessa prima lettera di Pietro, al capitolo 4, versetto 6, leggiamo: infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello spirito. Allora, come uomini sono morti, ma risusciteranno perché Dio darà loro il suo spirito e vivranno la vita eterna, che è la vita di Dio, la vita dello Spirito Santo. Gesù è venuto a salvare tutta l'umanità perché, come leggiamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati. E tutti vuol dire tutti. Quando si dice tutti, non si intende solo i contemporanei di Cristo o noi che siamo venuti dopo, ma anche quelli che erano esistiti prima. Questi ultimi, quelli esistiti prima, Gesù li ha cercati, trovati e salvati dove erano, ossia negli inferi, nel regno dei morti. Sant'Ignazio di Antiochia, che è uno dei primi vescovi della Chiesa, successore degli Apostoli, scrive: Gesù Cristo disceso da solo agli inferi, ne è risalito con una moltitudine. Ossia, Gesù Cristo discese da solo negli inferi e si tirò dietro in paradiso tutti quelli che hanno accettato di essere salvati e di seguirlo. Verso il 1550 i giapponesi si lamentavano con San Francesco Saverio, riporto le parole prese dai libri che raccontano questo fatto. Dicevano a San Francesco Saverio: se Dio è buono, perché non si è rivelato ai giapponesi prima del tuo arrivo? Perché ha tradito i nostri padri nascondendo loro la conoscenza della verità? Se Dio vuole salvare tutti gli uomini per mezzo di Gesù Cristo, perché ha tardato così a lungo a rivelarcelo? E i cristiani nel 1550 lo sapevano già da 1500 anni. Sempre stando in tema di giapponesi, nel 1919 il principe ereditario del Giappone Hirohito, che tutti noi abbiamo visto fino a qualche anno fa imperatore del Giappone, volle incontrare il cardinal Mercier, cardinale di Bruxelles, e gli disse: ho letto nel Vangelo che Cristo ha comandato ai suoi discepoli di diffondere la sua dottrina in tutto il mondo. Perché allora i discepoli di Cristo non hanno eseguito il suo ordine? Esistono nel mio paese 80 milioni di abitanti che non hanno mai inteso parlare della vostra religione. A questo aggiungiamo una piccola constatazione. Oggi esistono oltre 3 miliardi di non cristiani sulla faccia della terra. Adesso aggiungiamo tutti gli uomini esistiti dall'inizio del mondo, quindi milioni di anni fa. Aggiungiamo anche quelli che esisteranno fino alla fine dell'umanità e non diventeranno mai cristiani, perché non ne sentiranno mai parlare, oppure ne sentiranno parlare così male che non saranno convinti a diventare cristiani. Di fronte a questa moltitudine sterminata di miliardi di uomini che non hanno conosciuto Cristo per mezzo della Chiesa e del Vangelo, ci chiediamo: che ne sarà di questa moltitudine immensa di uomini che hanno vissuto e saranno morti fuori dalla Chiesa, che non avranno il loro nome scritto sui registri dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni? Come si realizza concretamente la volontà di Dio nostro Salvatore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, se queste persone non conosceranno il Cristo, il suo Vangelo, la sua Chiesa come strumento universale di salvezza? È proprio questa domanda e a questa risposta che dedicheremo un po' di tempo nella quarta parte di questa nostra spiegazione. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, ci ponevamo la domanda, secondo me molto importante e interessante: se per salvarsi bisogna conoscere Cristo, essere battezzati, la maggioranza degli uomini esistiti che esisteranno sulla faccia della terra probabilmente non diventeranno mai cristiani, allora tutta gente perduta, tutta gente che va all'inferno? Assolutamente no. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, tutti. Questo nostro interrogativo se lo poneva anche prima di noi Jean-Jacques Rousseau nel 1762. Scrisse un libro di cui vi riporto il titolo in francese, Profession de foi du vicaire savoyard. La seconda parte, al capitolo sesto, contiene anche questo brano tradotto ovviamente in italiano, che io vi leggo tutto di seguito. Milioni e milioni di uomini non hanno mai udito parlare di Gesù Cristo, ma lo si nega e si sostiene che i nostri missionari vanno ovunque. Si fa presto a dirlo. Voi mi annunciate un Dio nato e morto 2000 anni fa all'altra estremità della terra, in una cittadina sconosciuta, e mi dite che chi non avrà creduto a questo mistero sarà dannato. Mettetevi una mano sulla coscienza, mettetevi al mio posto. Debbo io credere sulla sola vostra testimonianza a tutte le cose incredibili che voi proclamate? Se il figlio di un cristiano fa bene a seguire senza un esame profondo e imparziale la religione di suo padre, perché un figlio di un turco farà male a seguire ugualmente la religione del suo? Sfido tutti gli intolleranti a rispondere a queste domande qualcosa che non contrasti col buon senso. Sotto la pressione di queste ragioni, alcuni preferiscono fare ingiusto Dio e punire gli innocenti per il peccato dei loro padri piuttosto che rinunciare al loro barbaro dogma. Altri si tolgono dall'impiccio inviando necessariamente un angelo a istruire chiunque, trovandosi in un'ignoranza invincibile, avesse vissuto moralmente bene. Oh, è proprio una bella invenzione, un angelo siffatto. Allora, che queste obiezioni sono anche le nostre obiezioni. Come fanno a salvarsi quelli dai quali non arriverà mai un missionario o un annuncio di Cristo Salvatore? Allora, noi leggiamo nella Bibbia, lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 6, questa parola di Dio ci insegna che esiste un solo Dio, Padre di tutti, quindi non solo dei cristiani, anche degli altri, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti, e tutti vuol dire tutti. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 9, troviamo subito una bellissima notizia. Il Verbo, ossia il Figlio di Dio, per mezzo del quale il Padre ci ha detto tutto, ci ha rivelato tutto, ci ha dato tutto, ha fatto tutto per noi, il Verbo è la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ossia Gesù Cristo illumina la coscienza, la mente di ogni uomo, anche di coloro che noi cristiani non raggiungeremo mai. Sant'Ireneo, grande santo, morto verso il 200 d.C., anche questo, uno dei primi vescovi successori degli apostoli, scrive: la presenza invisibile del Verbo, ossia di Gesù Cristo Figlio di Dio, è sparsa ovunque, quindi non solo all'interno della Chiesa, quella scritta sui registri. Per mezzo di lui tutto è sotto l'influsso dell'economia redentrice, ossia del piano di salvezza di Dio. Il Figlio di Dio ha tracciato il segno di croce sopra ogni cosa, che vuol dire sull'universo intero. Tutti sono sotto la benedizione, la salvezza, il segno di croce, tracciato non da me, neanche dal Papa, da Cristo. La croce di Cristo ha segnato a salvezza l'universo intero. I testi di teologia ci riportavano sempre quella frase, usata come un cavallo di battaglia, ma forse non sempre ben spiegata: fuori della Chiesa nessuna salvezza, ossia se uno non entra nella Chiesa non si salva. Citando ovviamente il Vangelo di Marco, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato, cioè, più chiaro di così. Si è tanto chiaro, ma non è poi così chiaro. Allora, questa frase significa che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ossia, non esiste salvezza. Ma per chi, notate, per chi dopo aver ascoltato l'annuncio del Vangelo, averlo capito bene, dopo aver capito che è Dio che gli parla e gli annuncia la salvezza secondo quelle modalità lì, lo rifiuta, resiste alla verità di Dio che lui ha conosciuto ben bene, e si ostina a rifiutare la salvezza portata da Cristo in terra. Allora, senza la fede è impossibile piacere a Dio, è una frase che riguarda quelli che hanno di fatto ascoltato il Vangelo, in una forma bella, in un annuncio fatto bene, un Vangelo convincente, del quale anche loro dicono: è così, lo so, è vero, eppure lo rifiuto lo stesso. Allora lì l'uomo incomincia ad avere una responsabilità. Ho capito che era giusto e non l'ho fatto lo stesso. Allora uno incomincia a diventare responsabile del rifiuto. Ma quelli che non hanno mai sentito annunciare niente, o se volete, anche quelli che hanno sentito annunciare il Vangelo o sono stati a catechismo, ma non hanno capito bene, oppure noi, preti, catechisti, chiesa che annuncia, abbiamo presentato un Dio così, anacquato, sbiadito, incredibile, più cattivo di quanto sono cattivi i nostri genitori o la buona gente che gira per le nostre strade. Un Dio astratto, fatto di formule, fatto di cavilli. E alla fine ha scosso la testa dicendo: ma io a un Dio del genere non ci posso credere. Non diciamo che questi hanno rifiutato Dio. Hanno rifiutato una contraffazione di Dio, una maschera ridicola di Dio, perché noi annunciatori non siamo stati credibili, abbiamo annunciato Dio con così poca convinzione che gli ascoltatori non sono riusciti a credere. Ricordate quel piccolo aneddoto che lo si raccontava nei tempi passati, forse più che adesso. Una sera del mese di maggio un parroco apre la chiesa, illumina tutta la chiesa, si veste, è lì pronto con la corona in mano, lì al suo banchetto, lì sull'altare, ad aspettare la gente che venga a dire il rosario. E quella sera non venne nessuno. Meravigliato, uscì dalla porta della chiesa e vide che in piazza c'era un tendone di un circo, di un teatrino viaggiante, e che tutti i suoi parrocchiani si erano infilati lì sotto per vedere lo spettacolo, la commedia, la farsa. Alla fine dello spettacolo andò dal capocomico e gli disse: ma mi scusi, come mai qui da voi, che dite stupidaggini, sono venuti tutti e da me in chiesa, dove dico delle cose serie e importanti, non è venuto nessuno? E il capocomico gli risponde: reverendo, è molto semplice. Noi qui diciamo delle stupidaggini con tanta convinzione e tanta preparazione che sembrano cose vere e importanti. Voi in chiesa dite delle cose vere e importanti con così poca convinzione e preparazione che sembrano stupidaggini. Ecco, allora leggiamo da un commento al credo fatto dal teologo evangelico o protestante, per chi ha questa dicitura superata, Pannenberg, nel suo libro intitolato Il credo e la fede d'oggi. Leggo di seguito tutta questa citazione. Se Dio si è rivelato appena in Gesù, se solo in Lui è apparsa la salvezza per l'umanità, che ne sarà allora di tutti gli uomini che vissero prima che apparisse Cristo? E che avverrà dei molti che non vennero mai a contatto col messaggio cristiano? Che ne sarà infine degli uomini che udirono sì parlare del messaggio di Cristo, ma forse per colpa dei cristiani stessi incaricati della predicazione non hanno mai incontrato la verità di questo messaggio? Tutti questi uomini sono incorsi nella perdizione, sono andati all'inferno? Rimangono esclusi per sempre dall'intimità con Dio che è stata aperta, offerta, donata all'umanità da Cristo? A questi interrogativi la fede cristiana risponde: no, anche queste persone possono salvarsi, o meglio essere salvate da Dio. Questo è il senso della formula della discesa di Cristo agli inferi nella professione di fede. Essa reca in sé questo senso, notate. Ciò che in Cristo è stato compiuto per l'umanità intera vale anche per gli uomini che non sono mai venuti a contatto con Gesù e col suo messaggio, o che non sono mai riusciti realmente a scorgere la verità della sua figura e della sua storia. Noi a Messa abbiamo un richiamo tutti i giorni. Gesù ha detto: questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti, ossia per tutti gli uomini, per l'umanità intera. Cristo è morto per tutti, per salvare tutti, ha versato il suo sangue per tutti. Ecco, allora ci avviamo alla conclusione. L'umanità intera e ogni singolo uomo, nel momento stesso della loro suprema degradazione, quando muoiono, sono raggiunti, diciamo, personalmente e singolarmente da Cristo Salvatore. Ogni uomo, ogni donna, cristiano o non, si incontrerà con Cristo, forse in tante circostanze della vita, ma sicuramente nel momento della loro morte. C'è una evangelizzazione radicale, esistenziale, universale di tutti gli uomini, fatta personalmente da Cristo, che annuncia la bella notizia della salvezza e offre realmente la sua meravigliosa salvezza non solamente ai suoi contemporanei, non solo agli innumerevoli uomini che lo incontrano nella Chiesa visibile nel corso dei secoli, ma anche, ed è qui il punto importante, a ciascuno e a tutti gli uomini, quando e dove vivono, soprattutto nel momento importantissimo della loro morte. Ossia, tutti si incontreranno personalmente con Cristo durante la vita, in un modo misterioso che noi non sappiamo, o perlomeno non sempre sappiamo. Tutti sicuramente nel momento della morte, perché quello è un punto dove arrivano tutti e dove ci è passato Cristo e ha trasformato la morte da porta dell'inferno a porta del paradiso. Ecco allora che diventano credibili, chiare, limpide per noi alcune frasi del Vangelo. Gesù è veramente il Salvatore di tutti gli uomini. Solo così si avvera in modo pieno e totale quanto ha detto Gesù Cristo. Notate questa frase che è splendida. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.